Con l'intesa UDC Rosa Bianca si chiude di fatto la partita delle alleanze. Il simbolo della lista sarà lo scudo crociato con la scritta costituente di centro con Casini Premier. Formalizzeremo il tutto nelle prossime ore, ha chiarito Pezzotta. Non vogliamo rifare la DC, ha aggiunto Baccini, ma offrire un'alternativa agli italiani che non si rassegnano a votare Berlusconi o Veltroni. Non si tratta di balena bianca, si tratta di scardinare un sistema, offrirne un altro agli italiani. Credo che tutte quelle forze vive che nel paese ci sono e non hanno trovato in questo momento, in questi ultimi 15 anni, la soluzione ai suoi problemi, ecco, noi vogliamo rappresentarli partendo dal basso e partendo dall'alta politica. Berlusconi e Fini intanto stringono i tempi per il varo del programma del Popolo della Libertà che potrebbe avvenire domani. Resta aperta invece la questione della ripartizione dei seggi, cioè sì l'intesa con le liste collegate, Lega e Lombardo, ma non quella con le piccole formazioni aderenti al PDL. Di problema politico parla Rotondi, nuova DC. Se il PDL nasce con una fusione tra Forza Italia e AN, e noi ospiti, buon viaggio, ma un'ospitalità si può dire anche no grazie. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.